Beirut, la mia voglia dalla nascita. Sono arrivati con te, Beirut. Proiettili prima del latte materno. Beirut, resti sotto pelle, frammento dopo frammento. Ti sciogli nel tramonto sulle vesciche dei tetti. Fa male toccarti, Beirut. Tu sei una lezione che non imparerò mai. Fa male amarti, Beirut. Ma io continuo a bussare alla tua porta alle 4 del mattino, quando le luci al neon nel tuo quartiere si fanno piccole, quando le cantilene politiche nella tua piazza si smorzano, allora resterò fuori dalla tua porta. Lo so che non aprirai mai per me. Beirut, ho baciato i tuoi marciapiedi crepati e ho dormito rannicchiata contro i tuoi muri crivellati dal piombo. Io e te è una storia d'amore per i libri.